lascia il tuo rimorso a rimpianto. Non puoi chiedere perdono a chi ha perso un figlio senza motivo. E tu tra vergogna e disgusto capirai troppo tardi ciò che è giusto. Rabbia che c'è in te, usala solo per difendere ciò che ami e che non vuoi perdere. Non prendere mai quella pistola, non tagliare mai la gola, non sarà solo la vittima a morire, perché a morire sarà anche te, a morire sarà anche te. Il denaro in quantità non ti darà mai la felicità. Se sei costretto ad uccidere gente innocente che per quel denaro ha stretto i denti e subisce violenza senza ribattere per paura del più forte. Ho paura della morte. La rabbia che c'è in te usala solo per difendere ciò che ami e che non vuoi perdere. Non prendere mai quella pistola, non tagliare mai la gola, non sarà solo la vittima a morire, perché a morire sarà anche te, a morire sarà anche te.